Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria: partiremo dall'incontro tra Mario Draghi, numero uno della Banca Centrale Europea, e gli industriali, industriali questa volta non tedeschi, non italiani. L'evento si è tenuto infatti a Berlino, sono gli industriali europei, e ha parlato appunto del, soprattutto dell'area euro, il presidente della Banca Centrale Europea. Vi dico subito, insomma, quello che tutte le agenzie, anche i nostri GR, stanno riprendendo: la situazione sta migliorando, il costo del denaro è ritornato a livelli più sostenibili, ma attenzione, occorre andare avanti sulla strada delle riforme, la ripresa è solo in una fase iniziale, disoccupazione troppo alta e l'economia che resta fragile, anche se i rischi sistemici sono calati a livelli precedenti al 2011. I rischi sistemici sono calati, adesso fatemi fare così un po' un gioco in apertura, grazie anche a quello che abbiamo appreso dagli Stati Uniti, ossia il presidente americano Barack Obama ha comunicato di accettare la decisione dell'ex segretario del tesoro Lawrence Summers di ritirarsi dalla corsa per la presidenza della Federal Reserve, della più importante banca centrale al mondo, diciamola così. Allora, visto che, come abbiamo raccontato anche nelle puntate precedenti, Summers, con tutto il rispetto che si può avere per il consigliere di Bill Clinton, il numero uno come consigliere economico, è stato l'uomo che ha introdotto, o meglio, ha eliminato il famoso Glass-Steagall Act, quella distinzione tra banche d'affari e banche commerciali, che poi è stata la base della creazione della crisi finanziaria che è esplosa nel 2008, perché ha permesso alle banche, da un lato, di raccogliere soldi dai risparmiatori, dall'altro di fare investimenti altamente rischiosi. Questa separazione era frutto di una legge dopo la crisi del 29 per impedire che capitasse una crisi del genere, e infatti averla levata ha permesso, non dico che sia stata la causa, ma sicuramente agevolato poi lo scoppio della bolla, che poi non è una bolla, l'assunzione di rischi impropri e con dei costi enormi per la comunità. Questo voglio ricordare a tutti, che non è un problema solo di banche e banchieri, qui stiamo ancora pagando quello che è successo nel 2008, i cittadini americani lo hanno pagato sul fronte dei mutui, i cittadini europei l'hanno pagato sul fronte della contrazione dell'attività finanziaria e poi tutto quello che ne è conseguito. Quindi quel mondo lì di Wall Street, che abbiamo raccontato anche venerdì, che continua a guadagnare bonus milionari, che ha visto redistribuire i soldi soprattutto all'1% più ricco in America negli ultimi 5 anni, beh, l'ideologo della commistione tra il braccio destro e il braccio sinistro, tra chi raccoglie soldi sul territorio e chi fa investimenti altamente speculativi, si chiama Lawrence Summers. E quindi, se permettete, per quel poco che contiamo, quasi nulla, festeggiamo il fatto che l'ideologo, diciamo, di quello che poi è stata la più grande crisi dal 29, almeno non diventi il presidente della prima banca centrale al mondo. Sono magre soddisfazioni, mi rendo conto, però attenzione che ogni tanto è giusto anche alzare lo sguardo, anche perché la reazione degli investitori è stata più che positiva. A questo punto torna in auge il nome di Janet Yellen, vicepresidente della Fed e accesa sostenitrice della strategia di Ben Bernanke. Sarà lei la prescelta, probabilmente la politica monetaria americana non cambierà di molto dunque se dovesse essere lei la numero uno, visto che seguirà le orme dell'attuale presidente Ben Bernanke. Al di là di Summers, le borse come vanno? L'America, partiamo da lì oggi, più 1%, l'Europa più 0,75 Parigi, più 1,15 Francoforte, più 0,50 Londra, più 0,90% Milano, con Exor in evidenza, la controllante del gruppo Fiat, più 2,80%, ST Microelectronics più 2,5%, G-Tech più 2,14%, come Mediasorin e UbiBanca, il 2% lo guadagna Pirelli, ma anche Tenaris, l'1,70% è rialzo di Buzzi Unicem e di Unicredit, un punto e mezzo il guadagno di Mediolanum e Snam Rete Gas, l'1,30 quello di Mediobanca e Todds. Chi cala oggi? Poco, diciamo, di poca intensità i cali, Telecom meno 0,60, Fiat meno 0,40 come Parmalat e il Monte dei Paschi. Restiamo all'estero perché al di là delle elezioni in Germania di cui ci occuperemo, comunque il risultato bavarese è abbastanza chiaro, insomma il partito gemello della CDU di Angela Merkel vince a man bassa, 47,7% dei voti più 4% rispetto, 4,5% rispetto al 2008, socialdemocratici al 20%, un più 1,5%, liberali crollano al 3,3%, quindi da questo punto di vista, se dovesse questa essere la proiezione poi del voto tedesco, non vi sarebbe più la grossa coalizione, cioè Angela Merkel potrebbe governare probabilmente senza i liberali o con i liberali ridotti a partner di secondo grado, di seconda importanza. Attenzione agli elettori liberi che raggiungono il 9%, erano il 10% in precedenza, i verdi leggermente in calo all'8,6%. Andiamo all'Italia, le esportazioni a luglio segnano su base mensile una diminuzione significativa, meno 2,3%, crescono comunque del 3% rispetto a luglio del 2012. Il saldo commerciale, cioè la differenza tra export e import, è comunque buono e in miglioramento perché sono calate ancora di più le importazioni, quindi il saldo è di 5,9 miliardi, il saldo commerciale, contro i 4,7 miliardi di un anno fa, del luglio di un anno fa. Dove esportiamo di più, sempre rispetto al luglio del 2012, più la Germania più 2%, anche la Francia più 2%, in Spagna meno 6%, Gran Bretagna invece è buono il dato più 5%, molto buono in Russia più 17%, negativo in Turchia meno 8%, molto bene nei paesi produttori di petrolio più 12%, ferma l'America, gli Stati Uniti, ottimo il dato in Cina più 23%, in Giappone più 16% e invece in flessione in India meno 3%. Sarà un caso, ma a fronte di un miglioramento dell'economia cinese e a questo punto anche giapponese con i dati della settimana scorsa, abbiamo assistito invece a un peggioramento delle prospettive sull'economia indiana e questi dati obiettivamente, cioè sul nostro export in questi paesi, lo rispecchiano. I casi di casa nostra, l'intervista del numero uno di Fiat, Sergio Marchionne, al Financial Times. Saremo pronti a presentare i documenti per l'offerta pubblica su Chrysler nella terza settimana di questo mese. Abbiamo bisogno, attraverso la quotazione, di determinare il valore. Il fondo Weber ha detto chiaramente che non vuole mantenere a lungo la quota, vogliono monetizzare. Però attenzione alle aspettative del fondo Weber, che sono eccezionalmente alte o anomale, vuol dire che chiede troppi soldi per uscire. Marchionne però ha anche aggiunto, e questo riguarda direttamente l'Italia: noi non produrremo mai l'Alfa Romeo fuori dall'Italia, potrà essere il prossimo numero uno a farlo, ma non certo io. E poi ha previsto che per Mirafiori tutti, questo è nel piano Fiat, tutti i lavoratori dello stabilimento vengano riassorbiti. Queste le notizie in breve. Di cosa ci occuperemo oggi come approfondimento sull'attualità e la cronaca economico-finanziaria? Dunque, in primo luogo chiaramente di quello che ha detto Mario Draghi e delle prospettive che intravede, ma in secondo luogo dello sciopero minacciato, a questo punto quasi una certezza, dai sindacati che rappresentano oltre 300.000 lavoratori nelle banche, i bancari. L'ABI, infatti, l'Associazione delle Banche Italiane, ha disdetto il contratto. La legge prevede che entro 6 mesi dal rinnovo uno possa disdire il contratto per poi andare a trattare. Ha disdetto a sorpresa il contratto, furibondi sindacati che hanno minacciato sciopero e comunque il blocco di tutte le relazioni sindacali nelle singole banche. Faccio notare appunto che nonostante una riduzione in questi anni di 18.000 dipendenti da quando è iniziata la crisi nel mondo bancario dal 2008. Non sono tutti licenziamenti, sono prepensionamenti, poi c'è un fondo di solidarietà molto importante nel mondo bancario, altri sono appunto prepensionamenti e pensionamenti to cure, però a fronte di 28.000, scusatemi, bancari in meno dal 2008, tuttora il settore conta 309.000 dipendenti e per un totale di 32.500 sportelli. Da quando è scoppiata la crisi, gli sportelli chiusi sono stati in totale 1.000. E poi ci occuperemo della vicenda non Ilva, come la chiamano impropriamente alcuni, della vicenda Riva, cioè, insomma, le manifestazioni sono proseguite da questa mattina nei principali stabilimenti del gruppo Riva, a partire da quello di Verona, ma ci sono anche quello di Pertusella Varese, di Lesegno a Cuneo, di Annone Brianza in provincia di Lecco, oltre ai tre impianti della Val Camonica. Ricorderete 1.400 dipendenti che sono raggruppati sotto la holding Riva Forni Elettrici sono a spasso in questo momento, colpiti dal blocco delle attività di giovedì scorso come conseguenza, secondo il gruppo Riva, della richiesta del blocco di sequestro, scusatemi, di 956 milioni, praticamente un miliardo di euro, deciso dal tribunale di Taranto, perché la famiglia Riva non aveva utilizzato, in questo caso sì, c'entra l'Ilva sull'Ilva di Taranto, non aveva fatto gli investimenti necessari a mettere in sicurezza e a riparare il danno ambientale, a mettere in sicurezza dalle emissioni nocive, e quindi ha fatto un sequestro equivalente. Allora, gli stabilimenti oggetto del blocco da parte del gruppo Riva fatturano complessivamente 1 miliardo di euro. La cosa paradossale, poi ne parleremo, è che hanno diversi ordini di attesa, cioè vanno bene, non sono in crisi. Qui abbiamo, in questo paese, io non ce l'ho con la magistratura, ci mancherebbe, però mi chiedo se non fosse possibile continuare a sequestrare beni, se questo prevede la legge, ci mancherebbe, alla famiglia Riva, accusata di non essere stata ottemperante, di non aver rispettato quello che aveva promesso di fare e di aver creato un danno medico oltre che sociale. Però dico, vedere a spasso 1.400 persone con una disoccupazione che abbiamo in questo momento in Italia a record, in stabilimenti che vanno bene, hanno diversi ordini in attesa di essere soddisfatti, solo per i tre stabilimenti della Val Camonica ci sono 50.000 tonnellate di acciaio ordinate, lo stabilimento di Verona ha commesse per lavorare a pieno regime fino a dicembre. Ora, ma ci rendiamo conto che questi rischiano anche di perdere le commesse? Mi sembra veramente il marito cornuto che si taglia la parte, diciamo, riproduttiva del corpo, perché è un atteggiamento, se qualcuno se lo ricorda, da Tafazzi. Io non ci credo che non ci fosse altro modo per sequestrare dei beni a Riva senza bloccare gli impianti in questione. La Riva Acciaio comunque ha detto che il sequestro da parte del GIP di Taranto sottrae alla disponibilità di Riva Acciaio tutti i beni senza disporre di alcuna facoltà d'uso a beneficio dell'azienda. Il sequestro preventivo penale impedisce all'azienda ogni utilizzo dei beni. Mi chiedo, non c'è la possibilità di avere un sequestro che però permettesse il continuamento dell'attività produttiva? Boh. In conseguenza del nuovo atto di sequestro, continua la nota di Riva Acciaio, le banche finanziatrici che erano tornate a riattivare i fidi ne hanno immediatamente disposto il congelamento totale o la revoca. E tra poco dovrebbe iniziare, adesso vediamo se i tempi siano confermati, mezz'ora, l'incontro tra il ministro dello sviluppo economico Zanonato e l'amministratore delegato dell'Ilva, del gruppo Riva, scusatemi, Ferrante, per capire se è presidente del gruppo Riva, Bruno Ferrante, se c'è un margine, anche perché qui, oltre che bloccare l'attività di stabilimenti che hanno commesse, blocchiamo anche l'attività di tutti quelli che queste commesse le avevano ordinate, per cui parte anche dell'industria italiana che aspettava l'acciaio. E quindi Draghi, ma anche lo sciopero minacciato, anzi annunciato più che minacciato, dai bancari, e la situazione degli stabilimenti Riva, oggetto oggi dei nostri approfondimenti. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Dunque, mentre in Germania si festeggia, o festeggia soprattutto il CDU, i cristiano democratici, per il risultato delle elezioni in Baviera, che è il land più importante in Germania, oltre 12 milioni di abitanti, su 80 milioni complessivamente in Germania, netta affermazione dell'Unione Cristiana Sociale, che è appunto la denominazione bavarese della CDU. Dicevo, mentre festeggiano i cristiano democratici in Germania, Mario Draghi oggi ha parlato a Berlino dell'area euro, ha incontrato tutti gli industriali d'Europa e le associazioni degli industriali europei, chiaramente, e ha detto: attenzione, insomma, qualche ripresa la vediamo, è solo in una fase iniziale, però l'economia resta fragile e la disoccupazione è ancora troppo alta. Siamo in collegamento con Berlino, dove c'è Alessandro Merli. Alessandro, buonasera. Sì, buonasera. C'è chi già mi sta scrivendo al 349-238-6666, ma Draghi sta diventando un po' democristiano. Oddio, allora, intanto il presidente della Banca Centrale Europea non può essere tranchant, mettiamola così. Lo è stato quando ha dovuto difendere l'euro e ha detto: metteremo in campo tutti gli sforzi necessari per difendere l'euro, quindi qualunque cosa sarà necessaria. Però... è democristiano Draghi o teme l'entusiasmo di alcuni politici nazionali, anche italiani, di fronte ai primi segnali timidissimi, perlomeno della fine della recessione e di un inizio di una ripresa molto molto morbida o bassa da noi? Ma credo che Draghi, più che della reazione dei politici, forse oltre che della reazione dei politici, sia preoccupato alla reazione dei mercati, cioè lui ha visto che nelle ultime settimane c'è un rialzo generalizzato dei tassi di interesse, che in parte è dovuto all'annuncio della Fed la prossima rimozione dello stimolo monetario, dell'avvio della rimozione dello stimolo monetario, ma in parte è dovuto al fatto che comunque c'è qualche segnale di ripresa, e quando la ripresa parte di solito i tassi di interesse cominciano ad alzarsi. Non è quello che vuole la BCE vuole tenere sotto controllo i tassi, tenerli bassi o ancora più bassi, ha ripetuto oggi Draghi, perché se no teme che appunto questo rialzo dei tassi possa soffocare una ripresa che è ancora nella sua infanzia. Ha detto oggi, nei giorni scorsi aveva parlato di germogli ancora molto acerbi di ripresa, quindi credo che questa sia la preoccupazione principale di Draghi, anche se ha detto la preoccupazione principale dell'Europa in questo momento deve essere quella appunto di rilanciare la crescita. La stabilizzazione in qualche modo l'abbiamo ottenuta, però non si sta trasmettendo dai mercati finanziari all'economia reale. Qual è stata, visto che tu hai seguito tutto l'incontro, la reazione dei vari presidenti delle varie confindustrie europee? Vi faccio ascoltare prima di tutto quella di Giorgio Squinzi, presidente della Confindustria italiana, che ha detto: insomma, attenzione, non solo rigore. Draghi ha ricordato che anche di solo rigore si può morire. Come ha detto anche giustamente il nostro primo ministro qualche mese fa, non possiamo solo applicare di rigore, perché di rigore si può morire, dobbiamo soprattutto cominciare a pensare a ripartire con gli investimenti per ritrovare la crescita, perché nel nostro paese se non ci sarà una crescita forte sarà difficile ritornare a creare lavoro. Chiaramente volevo dire primo ministro, non Mario Draghi. Il riferimento del presidente Confindustria Giorgio Squinzi era le parole di Enrico Letta. La reazione di chi rappresenta gli industriali europei, Alessandro? Ma direi che Draghi e Squinzi sono trovati d'accordo soprattutto su questo punto, che la priorità in Europa in questo momento deve essere il rilancio della crescita. Da un lato però Draghi dice che bisogna continuare con il rigore fiscale perché il debito pubblico è ancora alto, anche se sono stati fatti dei passi avanti. Dall'altra Squinzi, come hai ricordato, dice che di rigore si può anche morire. Però c'è stato un momento significativo, direi l'unico applauso a scena aperta della giornata, stando quando il capo degli industriali tedeschi, Grillo, ha fatto notare non parente dell'altro Grillo, ha fatto notare che Draghi è l'uomo che l'anno scorso con il suo intervento ha salvato l'euro, e a questo punto è scattato un applauso direi corale degli industriali in platea. Poi Squinzi ha ritrovato ho recuperato l'epiteto, la definizione di Super Mario per Draghi, e quindi insomma diciamo che Draghi ha trovato un clima abbastanza non è un mistero che gli industriali fossero molto, anche tedeschi l'anno scorso nel 2011 fossero molto preoccupati di un'eventuale tenuta dell'euro, perché insomma il mondo dell'industria e dell'economia reale ragiona in maniera un po' diversa rispetto delle volte alla politica e anche il mondo della finanza. Cioè la preoccupazione degli industriali tedeschi banalmente è che se finiva l'euro non esportavano più nulla in Europa, adesso la dico in maniera un po' brutale ma è così, e avrebbero avuto una concorrenza totale dai paesi fuori dall'euro, per cui è assolutamente così. Una cosa che Grillo oggi ha ricordato e che invece è stata del tutto assente direi dalla campagna elettorale, visto che hai citato il confronto con i politici, sono i benefici che la Germania ha avuto dall'euro. Diciamo che forse il difetto o il peccato degli industriali è quello di non essersi fatto sentire nella discussione politica anche pre-campagna elettorale, cioè hanno lasciato che le voci più diverse nella società e nella politica tedesca se la prendessero con l'euro, con i salvataggi, con i soldi dei contribuenti che vengono dati a questi pigri o disonesti europei dell'Europa meridionale, ma questa voce degli industriali, questa voce del mondo dell'economia che riconosce che la Germania ha avuto anche grandi benefici dalla creazione dell'euro non si è sentita. Oggi lo hanno detto, ma forse è un po' tardi, diciamo che nel frattempo si è affermata nell'opinione pubblica tedesca quest'idea che i benefici dell'euro sono andati tutti al sud Europa e che i tedeschi invece hanno dovuto soffrire e pagare. No, dico, ma quando mai? Nel senso che noi abbiamo avuto dei benefici come tutti i cittadini europei, ma anche noi, perché abbiamo i risparmi nei nostri conti correnti in euro, ci mancherebbe. Però andate a chiedere a qualunque impresa italiana se era più facile esportare prima o dopo l'euro e vi risponde. Andate a chiedere a qualunque famiglia italiana se era più facile o se un dipendente privato o pubblico, se aveva più potere d'acquisto prima o dopo l'euro, vediamo la risposta. Quello che vedo io è che la Germania, grazie al fatto che è il paese più affidabile dell'euro, ha avuto i tassi per finanziare il suo debito negativi, cioè conveniva a lei creare debito perché andava a pagare rendimenti negativi, ha un'inflazione comunque nell'area euro bassissima, in tutta l'area euro, ha avuto un vantaggio comparativo con gli altri paesi, e poi avendo l'euro comunque diciamo non troppo forte per i tedeschi, per noi sì ma per loro no, riesce ancora a esportare in Europa, voilà. A questo proposito chiudo anticipando quello che poi sarà anche il tema di mercoledì e delle puntate successive, cioè le elezioni in Germania. Tu facevi notare come gli industriali tedeschi non si siano fatti sentire nel dire attenzione ragazzi, l'euro conviene anche e soprattutto alla Germania, non alla Grecia, al Portogallo, alla Spagna o all'Italia. Però quanto forte rischia di essere il partito per il ritorno al Marco, dove tra l'altro, se ho ben visto, c'è anche l'ex presidente degli industriali tedeschi, no? Adesso non mi ricordo il nome, ma avanza. Allora, dimmi. Diciamo due cose. Uno è che, contrariamente a quello che si sente dire molto in Italia e magari anche in altri paesi, l'Europa è stata assolutamente al margine della campagna elettorale tedesca, se ne è parlato molto poco. Sono usciti temi molto diversi, i Verdi che vogliono imporre un giorno alla settimana di astinenza dalla carne per favorire la lotta al cambiamento climatico, i cristiani sociali bavaresi che vogliono imporre dei pedaggi autostradali agli automobilisti stranieri perché paghino per il rinnovo delle autostrade tedesche. Si è parlato di molte di queste cose, ovviamente delle pensioni dei tedeschi, del sistema sanitario, ma dell'Europa se ne è parlato veramente molto molto poco. Quindi non è come qualcuno pensa un dibattito sull'Europa o un referendum sull'Europa e nemmeno sui salvataggi, quello a cui assisteremo domenica prossima. È stato un tema abbastanza marginale. Per quello che riguarda il partito Alternative für Deutschland, che sostiene un ritorno al Marco, quantomeno una rottura dell'euro, nella quale eventualmente nell'euro restino solo la Germania e qualche paese satellite, per il momento non sembra aver sfondato, almeno a quello stando ai sondaggi che lo danno oscillante fra il 3 e il 4%, ma sappiamo anche che il margine d'errore dei sondaggi è abbastanza ampio, si tratta di vedere se riusciranno a entrare in Parlamento o meno. È anche vero che comunque in Germania questa linea è sostenuta anche al di fuori, diciamo, dal sistema dei partiti, tanto che per esempio il ricorso alla Corte Costituzionale contro il piano di Draghi per salvare l'euro è stato portato avanti da privati cittadini e da associazioni, quindi diciamo che non c'è bisogno di un partito anti-euro, ecco, per fare dell'ostruzionismo alle decisioni europee. Intanto, mentre noi parlavamo, la Borsa di Francoforte ha chiuso con il massimo storico a 8.600 punti, a dimostrazione appunto che la Germania è il paese, grazie anche alle sue virtù e al fatto che, essendo nell'area euro, non aveva un problema col cambio, è il paese che più ha beneficiato dell'euro in questo momento. La borsa lo riconosce con un indice appunto DAX a 8.600 punti. Interessante anche il programma dei Verdi. Faccio notare, Alessandro, che l'idea di non mangiare carne una volta a settimana, potresti dire al Partito dei Verdi che noi siamo più avanti di loro, perché se qua continua così, altro che una volta a settimana, due, tre, quattro, per cui l'Italia si sta già allineando al programma dei Verdi tedeschi. Non mangiare, diciamo, carne. La Chiesa Cattolica lo sostiene da secoli. Sì, lo so, però noi ho torto collo, lo mettiamo in pratica praticamente tutte le settimane. Se va avanti così, sarà una volta a settimana che si mangerà carne. Quindi un'Italia molto ecologista, grazie anche alle posizioni tedesche. Grazie Alessandro Merli, in collegamento con noi da Berlino. Grazie a voi. (349) 238 6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. La borsa ha chiuso più 1% Milano, appunto Berlino è il massimo storico. Ne parliamo dopo il meteo e la pubblicità e poi anche la vicenda dei bancari, lo sciopero dei bancari e la vicenda del gruppo Riva. Focus Economia. (17:40) minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso parliamo di borsa e poi andiamo invece anche alla pagina che riguarda il contratto dei bancari. Devo rispondere a un ascoltatore che scrive poco fa in merito alla mia battuta sul fatto che il Partito dei Verdi in Germania propone di mangiare carne di non mangiare carne una volta alla settimana. Io ho fatto la battuta, beh, qua in Italia ci stiamo già arrivando. E se è così le mangeremo una volta a settimana. È una battuta, c'è chi mi scrive: non se ne può più del suo disfattismo, davvero ha rotto, lascio stare la carne, io la mangio tutti i giorni e ieri al ristorante non c'era un buco, basta, avete rotto, deprimete la gente. Allora, io ero convinto che a deprimere la gente fossero i dati sulla cassa integrazione, il blocco degli stipendi, le aziende che vanno in crisi, la difficoltà che hanno le imprese, l'aumento della pressione fiscale, la politica che sembra non occuparsi dei temi reali di questo paese. Ero convinto che fosse questo, appunto, e anche non parliamo poi se sei giovane e donna, però adesso prendo atto che siamo noi a deprimere la gente. La carne la mangio tutti i giorni e ieri al ristorante non c'era un buco. Dov'è che l'ho già sentita questa, che erano i giornalisti che creavano la depressione, la crisi, e che i ristoranti erano sempre pieni e che c'era la gente che spendeva i soldi con i telefoni nel 2008, 2009, l'ho già sentita questa. Comunque, visto che è la canna e la mangia tutti i giorni, ci dica dove abita che verremo a trovarla volentieri. Invece c'è un ascoltatore che mi dà dell'ignorante, ma in questo caso ha ragione, nel senso che io ho messo, e chiedo venia, ho messo di dire, ne parleremo più avanti, ci mancherebbe, la risposta che ha dato la magistratura tarantina. È vero che il procuratore capo Franco Sebastio ha diffuso un comunicato in cui diceva: il provvedimento di sequestro, mi riferisco chiaramente agli stabilimenti del gruppo Riva, non prevede alcun divieto di uso. Peraltro lo stesso custode, il curatore giudiziario Ilva e Mario Tagarelli, è autorizzata ex legge a gestire eventuali necessità di ordine finanziario. Sì, peccato però che poi dallo stabilimento, per esempio di Verona, il direttore dello stabilimento dica: sì, ma il custode giudiziario è la stessa persona a cui i nostri responsabili si rivolgono da mesi per pagare gli stipendi di Riva Fire, altra società del gruppo, senza ricevere risposta. Adesso come facciamo? anche perché è tutto sotto chiave, come paghiamo i fornitori e i dipendenti. Temo che non sia esattamente così facile come la fa la magistratura, altrimenti sarebbe da dare la colpa solo ai Riva e parleremo solo di un becero ricatto sulle spalle dei dipendenti del gruppo Riva, no? La borsa oggi più 1%, record di Francoforte, la borsa. Non vedo dei messaggi che mi fanno ridere. Comunque, più 1,05% Milano, più 1,22% Francoforte, più 0,60% Londra, più 1% l'America in questo momento, Parigi più 0,90%. Titoli oggi poco mossi complessivamente, però Exor più 2,91%. Andrea Fontana, buonasera, Radio Cori sulle 24. Buonasera, Sebastiano. Exor. Exor ha viaggiato in controtendenza rispetto alle sue società operative, almeno quantomeno a Fiat, che oggi è stata in parte penalizzata da questa incertezza che continua e prosegue sulla questione della trattativa con Weber. Marchionne ha dato segnale di ancora posizioni lontane tra il sindacato americano e Fiat per quanto riguarda le quote in minoranza di Chrysler, mentre appunto la holding si è ben comportata. A differenza appunto di Fiat che ha perso lo 0,2%. Nel complesso una Milano che ha seguito le indicazioni dell'Europa e che diciamo così nelle ultime 7 sedute ha messo a segno diciamo così un break di 6-1, cioè una giornata in flessione e 6 giornate invece di rialzo, quindi un trend molto positivo. Lo spread oggi era un po' in riduzione, le banche se ne sono un po' avvantaggiate, UbiBanca più 2,40%, UniCredit più 1,80% e poi poco altro sul mondo bancario. Oggi Fondiere SAI, bancario assicurativo più 1,17%, poi Pop Milano più 0,90% come Intesa San Paolo. Mediobanca presente Conte domani, il titolo? Molto bene, più 1,3%. Molto quindi, bene adesso, no. 1,3%. Non esageriamo, Andrea. Beh, superiore diciamo all'andamento del listino, diciamo che su Mediobanca c'è un'attenzione quindi di carattere industriale, di carattere strategico, perché oltre ai conti di domani che sono attesi per la verità in perdita, c'è l'attesa di capire quali saranno le indicazioni dei vertici sulle partecipazioni, visto che Nagel, l'amministratore delegato, ha annunciato nei mesi scorsi la volontà di uscire da una serie di patti di sindacato. Sono molti quelli in cui Mediobanca è presente: Gemina, Intermobiliare, Sintonia, RCS, Pirelli. Gli analisti si aspettano che arrivino domani alcune indicazioni precise su i tempi di uscita e su quali saranno quelle conservate. Bene, appunto Mediobanca, bene anche Enel più 1,30, Eterna più 1,36, ma tra i migliori oltre a Exor, ST Microelectronics più 2,70, ci sono novità su ST? No, ci sono indicazioni specifiche di carattere industriale su questo titolo. Diasorin più 2,20, come Gitec più 2,20, Campari più 2%, Tenaris più 1,80, Snam Retegas più 1,80, un 1,60% lo guadagna Tods, ma anche Buzzi. Unicem l'1,5%, Pirelli. Chiudiamo con la saga Telecom. Una volta c'era la pubblicità che una telefonata ti allunga la vita, qui Telecom ci allunga la borsa, prego, meno 0,80%. Telecom il titolo che ha forse un po' frenato un rialzo potenzialmente superiore per Milano. Gli analisti guardano con molto, molto scetticismo quelle che sono le ipotesi diciamo così di riassetto di Telecom e soprattutto al timore che si debba procedere a un aumento di capitale che qualcuno ha già quantificato tra i 5 e i 7 miliardi di euro, e anche la dismissione del Brasile di Team Brasil porta a certe incertezze e cautele da parte degli analisti su chi la vede effettivamente come elemento positivo e chi invece è un po' è negativo o comunque dubbioso sul reale impatto di questa operazione. Allora, oggi in recupero tutti i titoli editoriali, tra l'altro il migliore in assoluto è comunque Tiscali oggi, più 10,90%, TXT Solution più 9,90%, Mono TV più 8%, Mondadori più 4%, e appunto il gruppo di, l'Espresso più 3,45%, bene anche il Sole 24 Ore più 4,55%. Prevengo la critica di chi mi scrive ogni giorno da 3 anni, tutti i giorni che vado in diretta, sul titolo del Sole 24 Ore è ancora ampiamente sotto il livello di collocamento, non ci posso fare niente. E comunque più 4,55% il Sole 24 Ore, invece sul fronte opposto Invest è meno 6,50%, Fintel meno 5,40%, PMS meno 4,46%. Allora, grazie Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, all'ascoltatore che ha detto siete dei voi che create la crisi, i ristoranti sono tutti pieni, mangio cane tutti i giorni, la deve smettere, dove cavolo è finita quella mail, quell'SMS, la devi smettere di deprimerci, create solo depressione, dedichiamo questo nostro invito. È sempre allegri, bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re. Fa male al ricco e al cardinale, diventa tristi se noi piangiamo. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re. Fa male al ricco e al cardinale, diventa tristi se noi piangiamo. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, devo rispondere anche alle forze di polizia italiane, hanno il contratto scaduto, avete ragione, non è vero che non me ne freghi nulla, guardi, spessissimo ricordiamo come gli stipendi nel pubblico impiego delle forze di polizia, del personale sanitario, parasanitario e quant'altro, siano degli insegnanti siano bassissimi e quelli che sono molto alti sono gli stipendi dei dirigenti, dei capi dipartimento, quello non è vero che non ce ne frega nulla, però... Devo parlare adesso del contratto dei bancari, perché l'ABI ha comunicato ai sindacati la disdetta dei contratti nazionali in vigore. Questo in applicazione alla normativa che prevede che la disdetta venga data almeno 6 mesi prima della scadenza, che è prevista per il 30 giugno 2014. L'ABI ha detto il nostro intento è quello di anticipare le necessarie fasi di consultazione. E si è molto arrabbiato il sindacato, stiamo parlando di un sindacato che rappresenta 309.000 lavoratori, meno 28.000 lavoratori nel mondo bancario dal 2008 a oggi, sono stati chiusi anche 1.000 sportelli, non sono solo licenziamenti, sono prepensionamenti, c'è un fondo di solidarietà molto importante e l'accordo ultimo era stato siglato a inizio 2012, prevedeva un aumento medio a regime di 170 euro, il blocco degli scatti di anzianità per un anno e mezzo, il rallentamento degli accantonamenti per TFR, riduzione del salario d'ingresso del 18% e poi un contratto complementare da 40 ore alla settimana, riduzione del 20% delle retribuzioni e con questi risparmi l'assunzione di 16.500 giovani entro il 2015. I sindacati del mondo bancario non hanno mai fatto uno sciopero dal 2000, chiedo però al segretario generale della FABI, che è il sindacato più grosso, Lando Silleoni, perché hanno annunciato sciopero, il blocco di ogni trattativa sindacale anche nelle singole banche, perché insomma l'ABI ha annunciato di aver disdetto il contratto semplicemente perché così prevede la procedura e per avviare le fasi di consultazioni. Silleoni, prego. Guardi, l'ABI, mi faccia passare lo slogan, io non faccio mai demagogia, ma mente sapendo di mentire, le spiego in due parole perché. Allora, intanto questo contratto nazionale che abbiamo rinnovato, questo in vigore il 19 gennaio del 2012, l'avevamo disdettato unitariamente, noi ABI, 3 mesi prima, proprio per continuare nella fase concertativa che ha dato grandi risultati quando abbiamo dovuto gestire i cambiamenti in atto nel sistema bancario con le trasformazioni e le fusioni. Ma la cosa veramente, siamo rimasti veramente esterrefatti, perché nel documento, nella lettera ufficiale che l'ABI oggi ci ha dato di disdetta, le ultime due righe sono devastanti dal punto di vista politico, perché nella sostanza è un ricatto, e le spiego perché. Perché ABI dice, o facciamo prima della firma naturale, della scadenza naturale del prossimo di questo contratto, giugno 2014, o facciamo un nuovo contratto entro quella data, oppure voi rimanete senza contratto. E questo è veramente incredibile dal punto di vista politico, perché poi apre nuovi scenari. Allora, Se non facciamo il contratto entro la scadenza di questo contratto, significa che poi le aziende, come ha fatto Marchionne in Fiat, cercheranno di farsi i loro contratti aziendali e di gruppo, cancellando, distruggendo l'unico elemento che dà garanzia a tutti i lavoratori, che è il contratto nazionale. Ecco perché sì, le dicevo che l'ABI mente sapendo di più. Però noi sappiamo anche che sia l'ABI che la Confindustria, che con un accordo anche sindacale importante, si va verso nelle relazioni industriali sempre più accordi aziendali, cioè di secondo livello e anche territoriali, se vogliamo, e sempre meno l'accordo nazionale. Perché questo? Perché si dice poi attenzione, all'interno di uno stesso settore ci sono diverse realtà a seconda dell'azienda in cui uno lavora, ci sono aziende, e vale anche per l'industria bancaria, che hanno meno problemi di altre, che anzi hanno i conti in ordine, così, e ci sono invece aziende, imprese, industrie che hanno più difficoltà. Quindi lasciare tutto al contratto nazionale poi va a discriminare molto all'interno e non tiene conto delle diverse specificità. Ma noi direttore invece siamo stati precursori da questo punto di vista, perché da anni noi riconosciamo, come lei ha sostenuto adesso, le diverse specificità di gruppi. Noi abbiamo dei premi aziendali che sono tarati, che sono regolamentati sulla base di quanto l'azienda guadagna, quindi il contratto nazionale serve per una tutela di carattere generale, soprattutto di carattere normativo. E il contratto generale è l'unico strumento che noi abbiamo per difendere gli attuali livelli occupazionali. Se ci tolgono il contratto nazionale, come è nelle intenzioni di ABI, noi ci troveremo di fronte a dei licenziamenti che non potremo più difendere, perché non avremo più nessun riferimento giuridico. Questo allora, è il punto. Allora resti con noi Silleoni, perché adesso ho il GR e poi vorrei chiedere altre due cose, soprattutto cosa farete, sciopero, in che modo potreste tornare indietro. Ci risentiamo dopo il GR. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stavo concludendo l'intervista con Lando Silleoni, che è segretario generale del FABI, la Federazione Autonoma dei Bancari Italiani, ossia il sindacato più grande che rappresenta i 308.000 dipendenti delle banche in Italia, perché ricordo che si fosse appena messo in collegamento, l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, ha comunicato ai sindacati la disdetta dei contratti nazionali in vigore, sostenendo che questo è in applicazione alla normativa che prevede che la disdetta venga data entro 6 mesi prima della scadenza prevista, quindi per il 30 giugno 2014, del contratto. Lo ha dichiarato l'ABI annunciando che l'intento, e precisando che l'intento, è di anticipare le fasi di consultazione. Abbiamo sentito che la ritengono una presa in giro i sindacati dei bancari, e le chiedo, Silleoni, che cosa potrebbe escludere, per esempio, una firma del contratto entro il 30 giugno 2014, cioè voglio dire, l'ABI dice andiamoli per trattare, abbiamo tempo per trattare in fase di consultazioni, perché non vi fidate che si possa chiudere un contratto entro il giugno del 2014? Beh, intanto non possiamo andare sotto ricatto, perché prima ci danno un pugno sul naso e poi ci dicono che questo pugno serve per creare le condizioni per fare la pace, no? Quindi sotto pressione e sotto ricatto noi non ci siederemo neanche al tavolo. Tra l'altro, guardi, lei ricordava prima che dal 2000 che non c'è un secondo di sciopero, abbiamo rinnovato diversi contratti nazionali senza nessuna forma di lotta, perché c'era una fase concertativa che, come le dicevo prima, ha dato risultati importanti. Ora il punto è un altro. L'ABI vuole raggiungere due obiettivi. Il primo è quello di fare un contratto alle loro condizioni, e questo è inaccettabile. Il secondo, e questo è l'aspetto grave e politico, sono andati i rappresentanti delle banche, sono andati fine luglio, i primi di settembre dal governo per chiedere una migliore fiscalità rispetto anche ai trattamenti che le banche europee hanno. Noi li abbiamo sostenuti, non parlo solo della mia organizzazione ma di tutte le altre organizzazioni, perché ci rendiamo conto in questa fase che non ci possono essere trattamenti in Europa fiscali di serie A per le banche europee e di serie B per le banche italiane. Siccome hanno avuto letteralmente la porta in faccia dal governo, adesso cercano di fare delle pressioni, cioè in sostanza disdettano il contratto, noi siamo costretti a fare delle azioni anche di sciopero e conseguentemente il governo ha un problema in più, poi vanno all'incasso e magari ottengono una migliore fiscalità. Ma noi a questo gioco gliel'abbiamo detto in faccia oggi, gliel'ho detto io anche al dottor Micheli che rappresenta le banche, noi a questo gioco non ci stiamo. Quindi, uno, vogliamo mantenere gli attuali livelli occupazionali, due, vogliamo un tavolo per definire un nuovo modello di banca, e abbiamo fatto la proposta, in questo tavolo ci debbono essere persone di grande spessore culturale e persone indipendenti, per capire com'è possibile ottenere due obiettivi. Il primo obiettivo è quello di mantenere gli attuali livelli occupazionali, il secondo obiettivo, nonostante la crisi, è quello di far ripartire le banche. Per noi le banche devono guadagnare, noi non siamo un'organizzazione integralista, noi non vediamo la finanza come un diavolo, ecco. Noi vogliamo assolutamente che le banche guadagnino, ma non possiamo mettere in discussione l'unico strumento che noi abbiamo per difendere i posti di lavoro, che è il contratto nazionale. Che cosa vi attendete come risposta dall'ABI a questo punto? Guardi, ho la sensazione che potrebbero in qualche modo, e lo dico con la massima umiltà, fare marcia indietro, no? Anche perché noi siamo estremamente determinati. Tenga anche presente che non solo sono... sarà mobilitata la categoria con delle assemblee, con degli incontri, ma bloccheremo da subito, questo già gliel'abbiamo detto, tutte le relazioni sindacali nei gruppi bancari. E tenga presente che nell'ultimo anno noi abbiamo raggiunto 13 accordi nei principali 13 gruppi bancari italiani, compreso MPS, compreso quelle banche che hanno qualche problema. E in questi accordi abbiamo convenuto insieme alle banche di prevenzionare volontariamente con incentivo economico, lo diceva lei prima, 19.800 lavoratori fino al 2020. Quindi noi la nostra parte per risanare il settore l'abbiamo fatta. Ora questa è una pugnalata alle spalle che non ci aspettavamo. Ma la minaccia di sciopero resta? La minaccia di sciopero non è una minaccia, è una realtà. Stiamo cercando di organizzarlo probabilmente per fine ottobre. Però dobbiamo assolutamente prima... convocare le nostre rispettive direzioni nazionali, non vale solo per la mia organizzazione, ma per le altre organizzazioni sindacali, per tutte le altre organizzazioni. Quindi lo sciopero, se ho ben capito, mi scusi Silleoni, verrebbe revocato solo se l'ABI dicesse vabbè, lasciamo stare, non disdiciamo il contratto e andiamo a trattare da qua al 2014, al 30 giugno. Guardi direttore, io sono abituato per mia cultura ad agire sempre unitariamente. Non sono direttore. Quindi, se la proposta dell'ABI ci sarà, noi ci riuniremo, siccome abbiamo un unico interesse, quello di salvaguardare i lavoratori bancari, ma anche le banche, perché per noi le banche non rappresentano un nemico, e quindi valuteremo con estrema attenzione se ci fosse una retromarcia da questo punto di vista. Però resta confermato da subito il blocco delle relazioni sindacali nei gruppi bancari, e poi valuteremo chiaramente con la massima convinzione e determinazione uno sciopero per fine ottobre. Grazie, no, dicevo non sono direttore, ma comunque non importa, sono il direttore Roberto Napoletano. Per precisione, comunque grazie Silleoni, ho capito quali sono le vostre richieste all'ABI per evitare lo sciopero da un lato, mentre restano bloccate, sospese in questo momento tutte le relazioni sindacali. Grazie al segretario generale della FABI. E adesso c'è il... no, mi fanno segno dalla regia che abbiamo in collegamento, bene, lo prendiamo molto volentieri, che abbiamo in collegamento il già citato rappresentante dell'ABI, vicepresidente Micheli, e allora lo ringrazio. Francesco Micheli è un omonimo di un altro Francesco Micheli, lo dico per evitare poi vari messaggi. Vicepresidente, buonasera. Sì, buonasera a lei. Lei immagino abbia ascoltato cosa diceva Silleoni, non si è intervenuto per caso. Chiaramente volevo sentire anche la vostra posizione, perché Silleoni, nel caso avesse perso alcuni passaggi, dice insomma noi vogliamo che l'ABI sospenda o torni sui suoi passi su questa disdetta del contratto nazionale, e poi a quel punto potremmo iniziare a trattare, ma non andiamo a trattare sotto ricatto. Ha parlato di pugnalata alle spalle. Prego. Mi dispiace molto che Silleoni abbia colto questa nostra disdetta in modo esclusivamente politico. Capisco che da parte loro ci debba essere una valutazione attenta, soprattutto sul piano politico, di questa decisione. Sì, ho ascoltato, dico. E, insomma, intanto ABI ha dato disdetta del contratto come previsto dal contratto stesso, nel senso che la disdetta deve essere data almeno 6 mesi prima della scadenza, e noi l'abbiamo data no, credo, nei tempi, ma anticipando un po' quello che normalmente si faceva in passato. L'intento è quello di metterci al tavolo il più rapidamente possibile, perché riteniamo che la complessità delle questioni che doverosamente siamo chiamati ad affrontare richieda un tempo piuttosto lungo, no, per ragionare. L'aspetto nuovo, se vogliamo, è che in assenza di accordo, dico, il contratto decade, che è esattamente la cosa che vorremmo, voglio dire, non accadesse. Siamo disposti, voglio dire, a confrontarci fin da subito. La cosa di cui si deve tener conto è che in assenza di disdetta si andrebbe ad un automatico rinnovo del contratto, per cui, voglio dire, era doveroso che Abbi facesse qualcosa in questo senso. Mi faccia capire una cosa però, Micheli, adesso io non voglio fare la demi-vierge, la mezza vergine, però voi avete ancora un po' di tempo, cioè potevate sedervi con i sindacati adesso e poi a sei mesi, cioè a dicembre di quest'anno, disdire comunque come prevede la legge il contratto. Cioè forse quello che ha insospettito il registro dei sindacati è che l'avete fatto con un anticipo, appunto, sospetto, come dire, attenzione, noi l'abbiamo disdetto, o si trova la quadra o il contratto salta. Beh, ma cosa, no, dico, cosa... magari iniziare a sedersi prima al tavolo e poi eventualmente, come la legge prevede, disdire il contratto sei mesi prima della scadenza, no? Ma non sarebbe cambiato nulla. Noi vogliamo darci più, vogliamo metterci a disposizione molto prima. Noi riteniamo che sei mesi potrebbero non essere un periodo sufficiente, anche otto mesi potrebbero non essere sufficienti per affrontare una riorganizzazione complessiva di un assetto contrattuale che, voglio dire, a nostro parere non tiene più, insomma. Modello contrattuale, dico. Ma la richiesta che arrivava da Sileoni di mantenere il livello occupazionale invariato? Bravo, dico, bisogna parlarne. Quello che Sileoni sa e che, devo dire, devo dare atto a lui di averlo anche riconosciuto, per cui, voglio dire, la sua posizione è da rispettare fino in fondo, è che in questo momento il settore non riesce a sostenere occupazione e retribuzione nello stesso momento. Il settore non produce ricchezza adeguata, perché da una parte ci sia una risposta positiva agli assetti regolamentari, lei sa cosa viene richiesto alle banche in questo momento per far fronte alla grande mole delle sofferenze sui crediti, e ragionare in termini di crescita, di retribuzione e mantenimento dei livelli occupazionali. In cima alle nostre priorità c'è l'occupazione, questo il sindacato lo sa, ma per affrontarlo abbiamo bisogno di metterci al tavolo e fare dei ragionamenti anche innovativi in prospettiva. Potreste tornare sui vostri passi per diciamo, evitare lo sciopero? Bah, la vedo veramente molto complicata, molto difficile, insomma. Noi, voglio dire, la disdetta l'abbiamo data, cosa dovremmo fare? Rimetterla nel cassetto e riprodurla il primo dicembre? Mi sembra di nuovo. Quindi non tornerete indietro? Ma no, mi sembra molto, molto difficile, insomma. E quindi avremo uno sciopero delle banche, dei bancari a fine ottobre? È probabile che si verifichi, a istanti di quelle dichiarazioni che ho ascoltato, insomma. Modello concertativo in questo settore ha tenuto brillantemente. Noi siamo confidenti che lo stesso modello venga d'ausilio alle parti per risolvere anche questo difficile momento. Oggi abbiamo dato al sindacato diversi documenti. Il primo riguardava le condizioni di scenario di ordine generale, però l'altro le condizioni specifiche del settore. Lì ci sono degli elementi di riflessione importanti. No, comunque ho capito che, insomma, la tenuta dell'attuale numero di occupati per voi non è difficilmente praticabile. No, quello non è difficilmente praticabile. Dico, ha bisogno di alcune condizioni. Le ho detto prima che in cima alle nostre priorità c'è l'occupazione. Tenga presente che in questo momento negli sportelli c'è capacità produttiva in eccesso, ma eccesso pesante, un po' per l'online, un po' perché la clientela in filiale ci va meno. Noi abbiamo una riduzione oggettiva di transazione allo sportello di oltre il 50%. Senta, so che magari non c'entra molto, ma me lo segnalano gli ascoltatori, ma aprire le banche anche il sabato ogni tanto, no? Perché allora Intesa San Paolo sta facendo. Sì, ma dico, hanno degli orari che obiettivamente per chi lavora sono abbastanza difficili da seguire. Abbia pazienza. Sabato no. No, dico sabato no, ma dico le altre banche, gli altri sportelli, forse potrebbe essere anche un modo per mantenere anche questo numero di occupati. È quello che sosteniamo. Va bene, grazie, staremo a vedere. Noi vi seguiremo perché abbiamo anche tanti bancari, più che banchieri, anche qualche banchiere, ma anche tanti bancari che ci ascoltano. Beh, per fortuna in questo paese sono più bancari che banchieri, me lo faccio dire, no? Micheli. Allora, grazie anche a Francesco Micheli, vicepresidente dell'ABI. Andiamo sul traffico, che poi dobbiamo parlare dell'ILVA, non dell'ILVA, ma del gruppo Riva e di quello che è successo anche oggi a Verona, in Piemonte e in Lombardia. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. I have a dream. And one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Il nostro sogno di oggi è che per effettuare un sequestro legittimo, secondo la magistratura, alla famiglia Riva, inadempiente per circa 3 miliardi di euro per non aver rispettato tutti gli investimenti che avrebbe dovuto fare per mettere in sicurezza ambientale e anche fisica l'impianto dell'IVA di Taranto, non si blocchino, non si mandino per strada, come è avvenuto, 1.400 dipendenti di 7 società che non c'entrano con l'IVA ma appartengono alla holding Riva Forni Elettrici, ossia Caronno, Pertusella Varese, Lesegno a Cuneo, Annone Brianza a Lecco e Verona, oltre a 3 impianti da Val Camonica che hanno già 50.000 tonnellate di acciaio ordinate. Ecco, questo ci sembra un assurdo. Il sogno è: volete bloccare e sequestrare la famiglia Riva come beni, fatelo, è la magistratura che lo dice, ma perché avere a spasso dipendenti di aziende che hanno anche ordinativi, quindi che non vanno male. Siamo in collegamento con, perché questa mattina ci sono state parecchie manifestazioni davanti alle fabbriche, con Marco Bentivogli, segretario della FIMCISL, oggi ha partecipato alla mobilitazione davanti allo stabilimento di Verona, 430 dipendenti commesse per produrre a pieno regime fino a dicembre. Dopo lo stop, riavviare i forni costerà comunque 300.000 euro. Bentivogli, buonasera. Buonasera. Si sta con la magistratura, cioè con la legge, ma mantenendo anche, non creando un danno a chi non c'entra nulla, cioè i dipendenti per esempio dello stabilimento di Verona? Ma ci vorrebbe semplicemente del buonsenso, quello che c'è in qualsiasi paese del mondo in cui si sa separare il grano dall'olio. E in Italia invece c'è sempre questo vizio di fare grandissima confusione e di sbagliare gli obiettivi. La reazione della famiglia Riva è stata assolutamente inaccettabile. Non si possono prendere i lavoratori in ostaggio e buttarli in mezzo alla strada come se fossero una zavorra da lanciare contro la magistratura. Altresì la magistratura ha la necessità di comprendere, di acquisire una maggiore virtù di discernimento. Non si può confondere l'impresa con l'imprenditore. L'imprenditore ha delle responsabilità, bene, va perseguito. Non esiste che si blocca un'impresa. E tra l'altro, per la verità, i comunicati della procura in qualche modo rettificano e precisano che è possibile continuare l'attività produttiva. È chiaro che va fatto non con un comunicato stampa ma con un atto formale, come abbiamo richiesto. Allora, Domenico Palmiotti in collegamento con noi da Taranto, citava già il leader della CIS Bentivogli il fatto che la procura di Taranto in effetti ha detto, lo ha detto appunto il magistrato Franco Sebastio, il provvedimento di sequestro non prevede alcun divieto di uso, ho capito bene? La procura sabato è intervenuta dicendo che praticamente non è vietato l'uso dei beni aziendali da parte delle aziende finite nell'orbita del sequestro, che quindi l'azienda può produrre. In più la procura ricorda anche che c'è un commissario amministratore dei beni, il commercialista di Taranto Mario Teagarelli, che è delegato anche ad affrontare problemi di ordine finanziario e quindi suppongo anche il pagamento dello stipendio. Però oggi il gruppo Riva è nuovamente intervenuto su questo comunicato della procura in cui dice, smentisce quello che dicono i magistrati, afferma che il provvedimento di sequestro del GIP non dispone l'uso dei beni industriali e in più afferma che le banche dopo questo provvedimento della magistratura hanno bloccato tutti i fidi, hanno revocato anche i fidi che erano stati aperti. Quindi abbiamo due versioni allo stato diametralmente opposte. Sì, tra l'altro anche il responsabile dell'impianto veronese, Bruno Marzoli, dice: ma questo commissario è lo stesso a cui ci rivolgiamo da mesi per pagare gli stipendi di Riva Fire, altra società del gruppo. e senza ricevere risposta. Adesso come facciamo, visto che oggi è tutto sotto chiave? Come paghiamo i fornitori dipendenti? Senta, Bentivogli, lei si è fatto l'idea che forse non fosse così ben scritto il provvedimento della magistratura, o è solo, diciamo, un gioco a rimpallo? È da luglio che i provvedimenti non sono ben scritti. Tant'è vero che la prima confisca, quella di luglio, quella di 8 miliardi e 100, paradossalmente il GIP mette a riparo la continuità produttiva dello stabilimento di Taranto, e io da subito feci richiesta di chiarimento per sapere cosa accadeva a tutta la galassia della vecchia Riva Group, e infatti siamo arrivati piano piano lì. Nessuno chiarì che cosa sarebbe accaduto, e adesso piano piano siamo in questa situazione di difficoltà. Da un lato l'azienda, stamattina ero anch'io all'incontro con Marzoli, dice non abbiamo possibilità di far funzionare gli stabilimenti. A noi non spetta interpretare chi ha più ragione o chi meno. Il guaio vero è che il Taranto è stata sotto sequestro per un anno, fino quasi alla legge 231, e lo stabilimento non si è fermato neanche sì, un'ora. Anche questo infatti è strano. Allora io, nel ringraziare Marco Bentivogli, vi daremo appuntamento nelle prossime puntate, segretario del film CISD, e Domenico Palmiotti, continuo col mio sogno. La procura di Taranto ha ragione, e Bentivogli, per fortuna l'IVA di Taranto non si è mai fermata nonostante i vari provvedimenti. Se c'è da riscrivere, riscriviamo questo provvedimento, chiariamo che non è un sequestro anche dalla parte produttiva, ma per favore, ci sono 1400 famiglie a casa in impianti e gruppi che avevano ordinativi, lavoro fino a dicembre, 50.000 quelli della Val Camonica, mi sembra la follia in un paese con il record di disoccupazione. Noi ci risentiamo domani anche sull'ILVA. Intanto da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.